minuti al 2000. Notte umana, notte di frontiera, dalla terra alla luna, 3 minuti a tutti, buona fortuna. Novecento, quanto tempo, quanto tempo. Goodbye, novecento, tutto il mondo in un momento. Destino che è scritto in cielo, l'acquario rinascerà e un sole gemello apparirà. Nettuno nel suo mare ci porterà e un uomo tutto d'oro con le ali risorgerà. Novecento, quanto tempo, quanto tempo. Novecento, tutto il mondo in un momento. E quando Giove che parla ai pesci con la luna si sposerà, a tutti